1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati, siamo pronti a leggere i giornali. Ah, vi devo annunciare che da oggi, per due settimane, andremo in onda fino alle 9:30. 9:30, non più fino alle 9, ma fino alle 9:30. Per le prime due settimane di luglio, cioè di luglio, insomma, da adesso, per due settimane, fate poi voi i conti. Allora, oggi parleremo di che cosa? Parleremo della lotta al terrorismo internazionale dopo la strage di Tunisi. Avremo ospite Domenico Quirico della Stampa. Avremo l'islamologo Paolo Branca, professore alla Cattolica di Milano. Parleremo anche, visto che si avvicina l'estate, della vicenda dei venditori abusivi sulle spiagge. Questo dopo le 9. Ci sono dei sindaci che si stanno attrezzando, è il solito dibattito, fanno bene, fanno male. Ne parleremo. Parleremo anche con il senatore Lucio Malan, questore del Senato, per la questione di vitalizia ai senatori. Insomma, tanti temi, eh? Dalle 8:15. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo lunedì 29 giugno, i titoli intanto, le aperture sono tutte declinate sulla questione Grecia. La Grecia sul baratro chiude le banche e l'apertura del Corriere della Sera. D'altronde l'annuncio è di ieri alle 20 e quindi la notizia è davvero che rischia di proiettare nel default Atene. Repubblica, caos Atene, borsa e banche chiuse. La Stampa, borsa e banche chiuse in Grecia. Il Messaggero, Atene chiude banche e borsa. Il Giornale, o la borsa o la vita, tragedia greca. Il Secolo XIX, Grecia stopa banche e borsa. Il Giorno, Tsipras chiude le banche. Come vedete, monotematici, l'edizione del lunedì del Sole 24 Ore invece si concentra su camere in gorgo d'estate per votare decreti e riforme. Questo lo vedremo anche più avanti con Mauro Meazza. Però voglio partiamo prima di concentrarci sulla Grecia e sulla Tunisia, che sono le due notizie portanti e più sviluppate sui giornali. Ci concentriamo su cosa? Su Vincenzo De Luca, il neo governatore della Campania. Sapete che oggi si doveva riunire il primo consiglio regionale, ma De Luca è stato raggiunto da una sospensione per la legge Severino. E allora, che cosa ti fa De Luca? Come reazione sospende, o meglio congela, il consiglio regionale. Il consiglio regionale, la cui prima seduta era oggi, è convocato a data da destinarsi. Lo ha deciso il consigliere anziano Rosetta D'Amelio dopo il decreto firmato da Renzi che sospende il presidente della regione Vincenzo De Luca. La D'Amelio parla della necessità di opportuni approfondimenti, visto che dal quarto punto dell'ordine del giorno c'è l'esposizione del programma da parte del governatore, un programma che però De Luca non può illustrare perché è sospeso. E dunque, statuto alla mano, la prima seduta del Consiglio regionale dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti. Questa è la mossa di De Luca, così titola il Messaggero nell'articolo di Paolo Mainiero a pagina 12. Salta l'insediamento del Consiglio regionale, ma anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questo. Caso De Luca, congelato il Consiglio, la Campania nelle mani del giudice, rinviata la prima seduta dell'assemblea per puntare sul ricorso. Nonostante l'ira di Forza Italia, l'ira del Movimento 5 Stelle, questa è la decisione di De Luca. A proposito di consigli regionali, il Corriere affianca a questa vicenda, sempre a pagina 19, un'intervista di Alessandro Trocino a chi? A Maria Carmela Lanzetta. Io non so se ve la ricordate, è stata ministro agli affari regionali di questo governo, poi si è dimessa, doveva entrare nella giunta della regione Calabria. Lei che era stato un sindaco antimafia a Monasterace, e poi si è rifiutata per una vicenda che riguarda un assessore regionale, De Gaetano. Maria Carmela Lanzetta lo aveva detto anche ai nostri microfoni, aveva detto: io non entro in una giunta in cui c'è quella persona. Ebbene, quella persona, cioè l'assessore De Gaetano, è stato arrestato Tre giorni fa, ricordate che Lanzetta fu anche ai nostri microfoni a raccontare. Ora Lanzetta ovviamente viene intervistata e dice: subì critiche feroci per il mio no alla giunta calabrese, ora quell'assessore è stato arrestato. Io non entrai per considerazioni politiche. De Gaetano non era stato candidato alle regionali, poi viene nominato assessore senza una spiegazione da parte del presidente Oliverio, nonostante io abbia sempre chiesto di spiegare il perché del doppio binario. Ricordo che i santini elettorali di De Gaetano erano stati trovati a casa dei Tegano, cioè una famiglia considerata affiliata alle cosche. C'erano anche le intercettazioni del suocero. Insomma, io all'epoca parlai e però fui insultata, ci furono critiche feroci e alla fine dico come Gandhi: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Insomma, si prende questa rivincita Maria Carmela Lanzetta, che dice: le critiche feroci le subii e invece quell'assessore ora è arrestato. Lasciamo la politica e voglio raccontare questa storia che è su Repubblica a pagina 19, la racconta Sara Martinenghi. Per curare l'epatite C ho dovuto pagare io, ora lo Stato mi rimborsi. È la storia di una donna che a Torino, è un medico, ha usato per sé e per la figlia, comprandolo e spendendo 134.000 euro, il super farmaco, il Sofosbuvir, finito al centro delle polemiche, finito anche al centro di un'inchiesta del PM Raffaele Guarinello, perché troppo costoso e riservato dunque solo a pochi. Da medico e da paziente sapeva questa donna che per via del genotipo della sua malattia non avrebbe in alcun modo potuto accedere alla terapia gratuitamente, così ha dovuto curarsi da sola, ha speso 134.000 euro. La figlia è guarita, lei ancora non del tutto guarita, ma ora questo medico dice è tutto ingiusto e proverà una causa civile al Ministero e alla Regione Piemonte per ottenere il rimborso di quanto speso. È, dice lei, un diritto che dovrebbe essere garantito ma che rimane schiacciato dalle leggi economiche delle case farmaceutiche, per cui farò causa e lo Stato ha il dovere di pagarmi. Tutto questo contagio, tra l'altro, è arrivato dopo una trasfusione infetta e poi ha partorito, trasmettendo questo alla figlia quando ancora non sapeva di avere l'epatite C, e quindi questa dottoressa, che si è curata da sola spendendo 134.000 euro, dice: ora lo Stato mi rimborsi e paghi tutto ciò che io ho speso per curarmi dall'epatite C. E beh, è un tema che più volte è finito sui giornali e probabilmente ci finirà ancora sull'importanza e la necessità di curare le persone e anche il costo che questo comporta. Ho invece notizie di cronaca: non ci sono buone notizie per i viaggiatori per quel che riguarda Fiumicino, perché secondo il Messaggero, pagina 15, dopo il terribile incendio del 7 maggio scorso, rischia di non riaprire il Terminal 3. Questo è il titolo a pagina 15, a tutta pagina del Messaggero: Fiumicino rischia di non riaprire il Terminal 3. Perché ci sono state delle rilevazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità riguardo alla possibilità di sostanze inquinanti ancora nell'aria nel Terminal 3, e sono state rilevate sostanze inquinanti, per cui l'Istituto Superiore di Sanità nella sua relazione dice: bisogna completare prima la bonifica prima di riaprire il Terminal 3. Questo c'è sul Messaggero ed è un qualcosa che riguarda ovviamente milioni e milioni di italiani, non solo, che passano attraverso il maggiore porto, l'aeroporto italiano. Guardate invece cosa vi lascio per quella che è l'articolo che ci fa più incazzare della giornata. A me ha fatto molto incazzare a vedere questa foto. È una foto ed è un trafiletto, non è un articolo molto grande, ma si trova sul Messaggero a pagina 17. e riguarda Cesare Battisti. Oh, ve lo ricordate Cesare Battisti, terrorista che ha 4 ergastoli sul groppone, non ha mai scontato nessuna pena, prima è andato in Francia, poi è andato in Brasile, lo sapete insomma la vicenda. Ebbene, Cesare Battisti si sposa, evviva, contenti, fiori d'arancio. Cesare Battisti si sposa, un trafiletto sul Messaggero che non lo so perché mi ha urtato, sarà lunedì, e mi ha fatto un po' venire il formicolio alle mani. L'ex terrorista Cesare Battisti, perché ex? Vabbè, e così c'è scritto, l'ex terrorista, ex terrorista Cesare Battisti si è sposato in Brasile con la compagna brasiliana Joyce Lima, con la quale conviveva da diversi anni, e viva! La cerimonia si è svolta sabato sera in camping sulla spiaggia. Evviva! Matrimonio sulla spiaggia! Fra i presenti anche il responsabile per i diritti umani della città, Cananeia. Questo signore Eduardo Suplicy, che è amico personale dell'ex presidente brasiliano Lula, e questo Suplicy ha fatto da testimone. Evviva! Allora, come detto, tuffiamoci negli articoli dedicati alla Grecia. Sono tanti e sono anche interessanti molti di questi racconti. La Grecia è la notizia principale, insieme ovviamente al dopo strage di Susa in Tunisia. E quindi queste sono le due tematiche più importanti. A partire dalla Grecia, ore 20, come titolo al Corriere a pagina 3, ore 20 di ieri, l'annuncio in TV, sportelli chiusi. Con questo annuncio, un discorso alla nazione di pochi minuti, il premier Tsipras ha annunciato che per 6 giorni, almeno per 6 giorni, fino a quando si terrà il referendum domenica prossima, referendum nel quale il popolo greco dovrà esprimersi, come chiede il governo, di dare un parere sulla proposta dell'Europa per salvare la Grecia, siete favorevoli o no, questo dovrà decidere il popolo greco, e in questa settimana nel frattempo le banche rimarranno chiuse. Oggi anche la borsa greca rimarrà chiusa. Tsipras scarica la colpa sull'Istituto Centrale Greco e su Francoforte. L'appello alla calma del premier, ma il blocco potrebbe durare 6 giorni per l'appunto. Per il Corriere viene dato per probabile, mentre per altri giornali è abbastanza certo che fino al referendum le banche rimarranno chiuse. In ogni caso, Federico Fubini, a pagina 3 del Corriere, alla fine Tsipras cita Roosevelt: in queste ore decisive la sola cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa. È stato il modo per il giovane premier di annunciare subito dopo l'ora di cena, quando non c'era più tempo per le proteste di piazza, che da oggi la borsa e soprattutto le banche in Grecia non riapriranno. La differenza rispetto a Roosevelt però è sfuggita perfino a Tsipras. Quando il presidente americano chiuse le banche nel cuore della Grande Depressione, le riaprì dopo pochi giorni perché fu in grado di annunciare garanzie dello Stato su tutti i depositi dei cittadini. Tsipras invece è alla guida di un governo che da domani sarà insolvente in modo quasi ufficiale, e la sua capacità di proteggere i conti in euro dei greci è vicina allo zero. E se gli elettori respingessero il programma europeo al referendum di domenica, come chiede lui stesso, il premier avrebbe un solo modo per riaprire le banche tra 8 giorni: imporre perdite ai depositanti, stampare una nuova moneta nazionale il cui valore crollerebbe in poche ore. Nonostante ciò, Tsipras rassicura: i depositi sono sicuri e così le pensioni, gli stipendi verranno pagati. Così dice Tsipras, ma è chiaro che la situazione è una situazione di estrema delicatezza e di estrema volatilità. È interessante ciò che lo stesso ministro alle finanze greco Yanis Varoufakis dice al quotidiano tedesco Bild. Non è un caso che parli a un quotidiano tedesco. L'intervista di Peter Tide la potete trovare a pagina 7 di Repubblica. Mi appello ai capi di governo, possono scongiurare il disastro. Dice Varoufakis: le trattative non sono né interrotte né terminate. Il 25 giugno le istituzioni dell'Eurogruppo ci hanno presentato una proposta dettagliata, il tempo era ormai scaduto. Rimaniamo comunque aperti a nuove proposte delle istituzioni. Se queste nuove proposte dovessero arrivare e noi le ritenessimo significativamente migliori, potremmo sempre cambiare le nostre indicazioni e suggerire agli elettori di approvarle nel referendum. Beh, ma da parte vostra invece arriveranno nuove proposte? No, risponde Varoufakis. Abbiamo già esposto le nostre posizioni. Sono eque e accompagnate da notevoli concessioni. Si basano su un solido programma finanziario legato alla concreta aspettativa di metter fine alla crisi senza ulteriori versamenti di denaro allo Stato greco. Sta ora alle istituzioni dimostrare buona volontà. Guardi Varoufakis che il memorandum scade il 30, cioè domani. Se non rispetterete questo termine, non riceverete la rata di 7,2 miliardi di euro. La Banca Centrale Europea bloccherà l'erogazione dei fondi di emergenza. Cosa succederà allora? Un assalto alle banche? La Grexit? Controlli sui movimenti di capitale? Risponde Varoufakis, se l'Europa permetterà che accada un simile disastro, solo per umiliare il nostro governo e nonostante le caute, moderate, concilianti proposte venute da parte nostra, allora gli europei non potranno non porsi la domanda sollevata dal capo del governo italiano, quindi Renzi, di fronte al clamoroso fallimento sulla questione profughi. È questa l'Europa che vogliamo? Ma così risponde Tsipras, Varoufakis. Varoufakis alla Bild, mentre il nostro ministro all'economia per Carlo Padoan, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 9, intervistato da Antonella Baccaro, dà un po' più di responsabilità proprio all'atteggiamento greco. È un fulmine a ciel sereno, così la decisione della Grecia di indire un referendum viene commentata da Padoan. Ha colto di sorpresa il ministro dell'economia questa decisione. La decisione greca è intervenuta dopo che l'Eurogruppo si è riunito 4 volte in settimana. Siamo arrivati a questo punto dopo 4 mesi durante i quali si è perso molto tempo. Da parte greca non si mandavano ai tavoli gli staff per discutere delle misure. Soltanto nelle ultime 2 settimane si è cominciato a entrare nel merito. Dunque tutta colpa della Grecia? Non c'è stato un intento punitivo dell'Unione Europea nei suoi confronti? No, non c'è stato. Risponde Padoan. Il mandato era quello di trovare un accordo, tant'è vero che su molti aspetti erano stati fatti passi avanti importanti. Certo, il governo Tsipras aveva un atteggiamento diverso rispetto al precedente, che era molto più collaborativo e sotto il quale l'economia era anche un po' migliorata. Poi dice Padoan, non voglio dare tutta la colpa alla Grecia, ricordo che non c'è un dibattito tra la Grecia e gli altri paesi, ma c'è un confronto continuo tra 19 paesi. Ma che accade se la Grecia ora voterà sì all'accordo europeo? L'ho chiesto anch'io al ministro Varoufakis ieri, immaginando a rigor di logica che un sì potesse equivalere a una sfiducia verso il governo Tsipras. Lui mi ha risposto no, in quel caso il governo rispetterebbe il volere del popolo greco e implementerebbe l'accordo. Poi dice Padoan, alla domanda parliamo dei nostri crediti verso la Grecia, si tratta di 10,2 miliardi di prestiti bilaterali e 27,2 di contributi al fondo, quindi fanno un totale di 37 miliardi e 400 milioni. Smentisco che il default greco produrrebbe un aumento del debito, dice Padoan. È già tutto contabilizzato. L'ultimo consiglio di questa lunga intervista è: cosa dice agli italiani che partono e andranno in vacanza anche in Grecia? Portatevi del cash, contante. Così dice il ministro dell'economia, portatevi il contante. Per il resto state tranquilli, non c'è alcun pericolo per i conti correnti e gli strumenti di risparmio in mano agli italiani. Questo Padoan. Sarà una settimana veramente delicata, delicata anche questa. Come delicata la situazione della lotta al terrorismo internazionale. Io devo dire sono rimasto un po' colpito dal fatto che la tragedia di Susa, o Sus, come lo volete chiamare, diciamo Susa, così la italianizziamo, si capisce meglio. Questa tragedia, sono rimasto molto colpito dal fatto che è finita un po' a pagina 10, 11, 12 già dei giornali. Ci sono decine e decine di vittime. Sarà mica... Questo è il sospetto che mi è venuto, che è finita relegata a pagina 12-15 dei giornali italiani perché non ci sono vittime italiane? Siamo fatti così male? Io penso un po' di sì. Voglio sempre avere la speranza ottimistica di rimanere deluso, ma temo di non sbagliare di troppo. Ci sono tanti articoli ovviamente sulla cronaca per cercare di capire chi fosse questo Seyfettin Rezegi. studente 23enne che ha compiuto la strage a Susa, lo potete vedere immortalato anche in un video che fa una break dance 5 anni fa, fa sicuramente molto effetto vederlo ballare la break dance, e peraltro molto bene, avesse continuato a fare quello invece di queste cose magari sarebbe stato meglio per lui e per tutti. Comunque c'è anche il padre disperato che parla, una dichiarazione che viene riportata dalla stampa, il padre di questo terrorista che dice: io non dormo da 3 giorni, sono un padre disperato, uno manda il figlio all'università e me lo indottrinano in questo modo, persi già un figlio per un fulmine, ora perdo quest'altro figlio morto eppure assassino. Il tema è: stiamo facendo abbastanza contro la lotta al terrorismo, al di là delle pacchianate Je suis sus, no? Come Je suis Charlie, pacchianate, non ho timore di ripeterlo 2 volte, le facciamo queste cose Je suis sus e poi andiamo a dormire tranquilli come se nulla fosse. In realtà poi nelle cose concrete, mentre l'Inghilterra dice attenzione, in Tunisia ci saranno sicuramente presto altri attacchi, mentre il premier francese Val dice abituiamoci a lottare contro il terrorismo e dice anche, aggiunge, forse è uno scontro di civiltà, bisogna ammetterlo. Mentre succede tutto questo, guardate qua, 2 articoli, il giornale, pagina 5, l'Italia ora paura, scatta l'allarme nei porti. Scatta l'allarme nei porti? Infatti, Emanuele Lauria su Repubblica, in Sicilia niente controlli sulle navi da Tunisi. Ma come niente controlli? Uno legge questo articolo. La prima nave partita da Tunisi dopo l'attentato di Sousse è approdata poco dopo le 3 al Molo Piave. Questo scrive Emanuele Lauria da Palermo a Repubblica. La Zeus Palace della Grimaldi ha sbarcato 270 passeggeri in un porto assolato che improvvisamente si è scoperto fragile. Nessuna particolare misura di sicurezza adottata ieri. Non c'è un metal detector, non c'è uno scanner a controllare chi viene dal Nord Africa. La sicurezza affidata come sempre a 3 funzionari della dogana che, assistiti da uno sparuto gruppo di poliziotti e finanzieri, espletano verifiche che sono giocoforza sommarie sotto un tendone, sempre lo stesso, con la calura come con la pioggia. E questo è. Cioè anche una minimale strumento, un minimo, banale strumento di sicurezza. C'è stato attentato in Tunisia, controlliamo le navi che arrivano dalla Tunisia, chissà mai che uno dopo l'attentato, qualche complice, possa essere fuggito. Niente, arrivano in Sicilia, neanche mezzo controllo. Va bene così. Mauro Meazza, buongiorno. Va tutto buongiorno. Bene, va tutto buongiorno. Bene, tranquillo. Ma non dovevo mica farli io i controlli, no? No, infatti. No, mi chiami in causa come se avessi mancato in qualcosa. No. Poi so, leggo dal Sole 24 Ore che ne riparlerai anche dopo la rassegna stampa. Sì, esatto. C'è persino una tua foto oggi sul Sole 24 Ore. Guarda, eravamo un po' forse a no, scherzo. L'abbiamo messa con molto piacere per annunciare, infatti, il tuo tema del post della seconda parte della tua trasmissione. E, tra l'altro, oggi parliamo anche dell'economia greca, come hai visto e come mi auguro tu abbia già mostrato agli ascoltatori nella nostra infodata, nell'infografica. Ecco, ho sentito che stai mostrando al microfono l'infodata, molto bene, lì si vede chiaramente come insomma lo stato delle questioni economiche in Grecia sia assolutamente difficile. Vabbè, ma per si vede, quindi è inutile che... Si vede, certo, non commentiamolo più, parliamo però anche di 7.30 perché in mezzo a pure tutte queste notiziole dal mondo, da diverse parti del Mediterraneo, ci sono anche le questioncelle fiscali. Parliamo di 7.30 con gli errori più comuni, ti indichiamo specialmente, io lo so che tu sbagli sempre il quadro A, allora vai a vedere, ci sono gli errori più comuni e anche come fare a evitarlo prima di spedire il 7.30. E poi naturalmente ti parliamo anche, oggi se l'esperto risponde, ti parliamo di risparmio con l'inquilino che non ti paga. Tu hai un inquilino che non ti paga o sei tu l'inquilino che non paga? No, nessuno dei due. Nessuno dei due casi, me ne compiaccio. E ti parliamo anche di condizionatori. Poi naturalmente parliamo di condominio. Mm-hmm. Nonostante ma non è martedì, sia lunedì, Esatto. No, è lunedì, ma parliamo lo stesso di condominio. Certo. Invece domani, che è martedì, riparliamo di 7.30, ma sul sito, perché ci sarà un forum con i dirigenti delle entrate per gli errori. Quindi se ti vuoi collegare da domani è alle 10, quindi tu hai già finito il tuo, per così dire, lavoro, puoi collegarti con il nostro sito del Sole. Poi sono io che ti derido, eh? No, sono io. No, no, no, vabbè, va bene, ma no, va bene così. Ti sei pagato per leggere i giornali, adesso non mi sembra male, peraltro. Impegno, no? Così. Ecco, ti volevo dire che parliamo di condominio perché appunto è una, c'è una sentenza importante sulla accessibilità ai dati dei condomini. Allora, veniamo alla politica italiana, vi segnalo un paio di articoli. Uno è quello di Maria Teresa Melli sul Corriere della Sera, che racconta ciò che ha in mente Renzi sulle unioni civili. Sapete che ci sono stati il Family Day, dall'altra parte il Gay Pride, se vogliamo contrapporli. Comunque l'idea di Renzi è questa: nessuno stop dopo il Family Day. Nel recente Family Day alcuni centinaia di migliaia di cattolici sono scesi in piazza per protestare contro la legge sulle unioni civili. E scrive il Corriere: il premier è un credente, è praticante, come noto è stato uno Boy Scout, ma ha l'idea che ci siano molti modi per essere cattolici adulti. C'è chi ama rivendicarlo con dichiarazioni, c'è chi, come lo stile di Renzi, preferisce andare dritto al sodo. E dunque dice sulle unioni civili: l'avevo promesso alla Leopolda 3 anni fa, non verrò mai meno alla parola data. Sulle unioni civili aveva promesso tempo fa, andrò avanti con la stessa determinazione con cui sono andato avanti sulla legge elettorale. Non sarà quindi un Family Day a fermarlo, anche perché, come spiega un ministro del PD, il testo che si sta esaminando è iper accettabile anche per molti cattolici. Nello stesso articolo, a pagina 16 del Corriere, si dice che invece l'emergenza immigrazione metterà un po' in sonno un altro progetto di legge, cioè quello di discutere la versione italica dello ius soli, cioè dare la cittadinanza non per sangue ma per appartenenza a un territorio, per nascita sul territorio italiano. Ecco, questa legge, visto il tema molto caldo, invece verrà messa un po' in cantina, per così dire, in questo momento non è il caso di proporla. Vi segnalo anche pagina 21 del Corriere della Sera, c'è un interessante articolo di Emanuele Buzzi sui movimenti all'interno, scusate il gioco di parole, del Movimento 5 Stelle, perché si sta studiando e si stanno studiando i nomi per l'obiettivo del governo alle prossime elezioni. Questo scrive Emanuele Buzzi: il movimento sta lavorando su obiettivi a lungo termine, nel mirino ci sono le prossime elezioni politiche, eventualmente anche le amministrative a Roma. I 5 Stelle hanno ribadito più volte la volontà di schierare una squadra di governo, spuntano anche i nomi, l'idea di mettere Luigi Di Maio come candidato premier, Barbara Lezzi all'economia, Carla Ruocco allo sviluppo economico, Nicola Morra all'istruzione, Giarrusso o Bonafede alla giustizia, Manlio Di Stefano, Alessandro Di Battista agli esteri. È vero, orizzonti ancora lontani, ma nell'esercizio della politica italiana ci stanno anche articoli come questo a pagina 21 del Corriere della Sera. È lunedì e quindi non leggete già in un paese ucciso dalla burocrazia l'articolo, non leggete, no, leggete in realtà, ma se volete farvi un po' il sangue amaro, Giuseppe Salvaggiulo racconta sulla stampa l'ennesima dimostrazione di come siamo un paese malato di burocrazia o di burocratite, come la vogliamo definire. Perché Storie Italiane è lo studio dei demenziali moduli della burocrazia. Prima pagina della stampa: chi è morto alzi la mano, è il titolo di un giallo della scrittrice francese Fred Vargas, ma potrebbe essere anche l'inizio di un'esplorazione nel labirintico pianeta dei moduli della pubblica amministrazione. Eh sì, perché c'è anche questo. Secondo le istruzioni dell'INPS, primo certificato che viene esaminato dalla stampa, i pensionati residenti all'estero devono completare ogni anno l'autodichiarazione di esistenza in vita. L'autodichiarazione, dunque il sottoscritto, nato, residente, consapevole delle sanzioni, dichiara di essere tuttora vivente. Che al di là della scaramanzia, scrive Salvaggiulo, è un modulo paradossale. Se lo scrivente dichiara il falso, significa che vivo non era, cioè che era morto. Ma se era morto, a chi si applicano le sanzioni penali sulle dichiarazioni non veritiere? Effettivamente, come si fa? Poi c'è la mitica PEC, Vi ricordate convegni, forum, pubblicità? Ci ha riempito la testa con la necessaria digitalizzazione della pubblica amministrazione, che ha come scheletro la posta elettronica certificata. E sapete cosa serve per ottenerla? Un modulo cartaceo, incredibile, se del caso corredato di copia del documento di identità. Ma per attivare una procedura informatica non basterebbe un atto informatico? E così via, insomma, l'esame dei tutti i demenziali strumenti e moduli della burocrazia, autocertifico che sono morto. Ecco i 10 moduli più assurdi dell'amministrazione pubblica. Sulla Stampa lo trovate a pagina 18. Sappiate che il Papa è stato annunciato alla TV di Stato boliviana. Quando andrà in Bolivia, e questo succederà, non lo so quando, ma succederà, masticherà foglie di coca. Il Papa masticherà foglie di coca. Lo ripeto perché è entrato Lorenzo Nespoli su Periscope, quindi lo ripetiamo per tutti. Questo almeno un ministro boliviano giura, lo scrive il Corriere della Sera a pagina 23, il ministro boliviano che si assume questa responsabilità è Marco Macicao, ministro boliviano della cultura. Parlando all'emittente di Stato boliviano ha detto: il Papa quando verrà da noi masticherà foglie di coca. Vabbè, insomma, Francesco ci ha stupito e ci stupisce ogni giorno, potrebbe stupirci anche con questo, ma va bene, siamo al momento della carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Ero un po' incerto, tra i segreti dello Zafferano, signore delle spezie, ma poi ha vinto sul giorno, torna un'intera pagina, torna Dominique Strauss-Kahn, ex del Fondo Monetario Internazionale, preso per mignotte, queste cose qui, poi assolto. Strauss-Kahn riparte da Twitter, una pagina, avviso al mondo, sono tornato, con questa frase: Jack is back. E si dice in Francia, ci si chiede tutti, ma tutti nei bar, cosa voglio dire Jack is back? Cosa vorrà dire Jack is back? Chi è Jack? Lui si chiama Dominique. Jack is back. Una pagina.